per parlare del Do It Festival Drammaturgie Oltre il Teatro. Ne parliamo con Angela Telesca, che ne è curatrice, dal 14 marzo fino al 9 di aprile. Angela, ben ritrovata. Ciao a tutti, grazie Federico per questa ospitalità. Allora, non è la prima edizione, facciamo un riassunto, di cosa si tratta? Allora, siamo alla terza edizione, è un festival di teatro contemporaneo che curo insieme a Cecilia Bernabei. Quest'anno siamo in scena all'Arma Teatro in via Ruggero di Lauria 22 in zona Cipro. E che dire, non è un classico festival di teatro contemporaneo, è oltre il teatro, in quanto oltre promuovere la drammaturgia e stimolare la drammaturgia contemporanea di qualità, tendiamo anche a dare spazio ad altri tipi di arti. Quest'anno abbiamo anche uno spazio per la musica, presentazioni editoriali, presentiamo la collana teatrale Le Nebulose il 19 marzo e quindi non solo teatro, insomma, questo in sintesi. Senti, partiamo questa sera con lo spettacolo Antigone, Metamorfosi di un mito, che l'anno scorso ha vinto il concorso di drammaturgia contemporanea all'Artigogolo. Come sai, ormai il Do It Festival è collegato appunto a questo concorso di drammaturgia e ci piace, ecco, poter riportare in auge la simbiosi tra la messa in scena e la scrittura per il teatro. Senti, quanti lavori ospitate e poi come funziona la messa in scena? Quanti giorni sono su? Allora, quest'anno abbiamo 8 spettacoli in concorso e 20 ospiti che si concentrano soprattutto nel fine settimana del sabato e la domenica. Sì. Quindi ogni settimana abbiamo 2 spettacoli in concorso, quindi martedì e mercoledì il primo spettacolo e mercoledì e giovedì il secondo spettacolo, mentre, come dicevo prima, il sabato e la domenica facciamo eventi, ospitiamo eventi off, quindi anteprime teatrali oppure presentazioni editoriali e musica. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, siamo sul sito www.doitfestival.eu e poi abbiamo la pagina Facebook Do It Festival, Instagram, Twitter, potete seguirci ovunque. Io avevo pronunciato Do It all'inglese, ma non avevo... No, hai fatto benissimo, l'ho solo specificato per scriverlo, ma è Do It, perché la nostra idea era quella appunto di proporre anche un teatro proprio da fare, uno stimolo a fare teatro contemporaneo ma di qualità. Senti, ecco, e ospitiamo compagnie che vengono da tutta l'Italia, okay, un po' anche per tentare di sprovincializzare un po' Roma e dare spazio a realtà periferiche. È il caso di dirlo, perché il teatro, diciamo, un palco romano ospita compagnie che vengono dal profondo nord. Abbiamo compagnie del Veneto, anche questa settimana stessa, mercoledì e giovedì c'è Sic Transit Gloria Mundi con la compagnia Ippogrifo Produzioni, che viene dal Veneto, e successivamente avremo compagnie dalla Lombardia, dalla Puglia. Questa sera invece la compagnia è abruzzese, appunto, come dicevo, con Antigone, Metamorfosi di un mito, che diciamo, ecco, si ispira sicuramente all'Antigone, ma calata nella realtà di oggi del quartiere di Scampia. Diciamo che, ecco, quello che stiamo intercettando è una drammaturgia che vuole essere sicuramente lo specchio della realtà, ma che vuole anche guardare al passato e al passato vicino, alla storia contemporanea, ma anche ai classici. Senti un po', quali sono i criteri di selezione, oltre alle cose che ci hai detto? Allora, sì, come dicevo, sicuramente tendiamo a dare spazio a una drammaturgia che abbia sicuramente un occhio all'impegno sociale, okay, e che sia di qualità, perché appunto uno degli obiettivi del festival è anche quello di poi appunto essendo un progetto collegato alla casa editrice Chi più ne art, la possibilità per il vincitore o comunque per gli spettacoli che hanno avuto la menzione speciale alla drammaturgia eventualmente di poter essere pubblicati e quindi non solo visti ma anche letti, ed è quello che poi cerchiamo anche di fare sabato 18 presentando appunto la collana teatrale Le Nebulose. È un progetto piuttosto articolato, per questo è oltre il teatro, che vogliamo ecco sicuramente dare spazio anche al teatro che si può spogliare, quindi all'editoria, ma anche appunto il teatro da vedere nell'ottica dell'innovazione. Uno degli ultimi spettacoli infatti sarà proprio una performing art con video, luci, insomma piuttosto installazioni piuttosto innovative, che però guarda all'attualità e indaga le nuove relazioni nell'era dei social. E sì, mi piace dire che è un festival che offre diciamo un istantaneo sul panorama teatrale piuttosto ad ampio raggio. Okay. Guarda oggi, indaga l'oggi, ma anche quello che è stato ieri. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti, visto che si tratta della terza edizione, qual è lo stato della drammaturgia oggi? Lo stato è una bella domanda. Ci troviamo ecco spesso a rintracciare delle novità nella drammaturgia, delle specificità interessanti, ma anche purtroppo almeno per quello che arriva diciamo attraverso i nostri canali di visione, anche drammaturgia un po' poco precisa, più raccontata che drammaturgica nel vero senso della parola, più narrativa che performativa. E questa diciamo è una tendenza che stiamo notando ultimamente. Sicuramente l'aspetto sociale è fondamentale, è un'urgenza. Ultimamente tanto internet, tanti social, tante donne che vogliono raccontarsi in una maniera nuova, in una nuova prospettiva, distruggendo i soliti cliché, come nel caso appunto di Sic Transit Gloria Mundi, che avremo mercoledì e giovedì, in cui fa da protagonista una donna che diventa papa. E più in là invece avremo Giulietta degli Fiori verso aprile, dove appunto c'è ancora una donna emarginata, una senza tetto, che appunto racconta la sua vita in una maniera piuttosto poetica. Ecco, diciamo che i temi sì sono questi: temi sociali, donne, storia. Ok. Allora ricordiamolo, all'Arma Teatro da oggi 14 marzo fino al 9 aprile. Do It Festival Drammaturgie oltre il teatro. Angela, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie Federico, ti aspetto. E come sempre segnalaci lavori che possono essere adatti al radioteatro. Assolutamente, con grande piacere. A presto. Grazie. Ciao. Grazie. Buona serata.